E benvenuti al primo podcasting di direfareblogare.it. Direfareblogare.it è il mio nuovo blog. Io sono Andrea, sono di Torino, ho 17 anni e la mia passione principale è l'informatica, la musica e il cinema. Le mie passioni principali, diciamo. Che dire, ho deciso di farmi un nuovo blog perché forse lo spazio che mi proponeva MSN Space era un po' limitato anche in quanto creatività, cioè non potevo modificare a mio piacimento la skin, cioè la pelle del blog, la grafica, e non potevo fare molte altre cose che invece con questa piattaforma libera WordPress posso fare. Bene, incominciamo tra pochissimo. I'm high class, fill up a champagne glass. I'm a choke if you broke man, 'cause your jokes ain't funny. Per cominciare, cos'è un podcasting? Un podcasting si può definire una radio indifferita, nel senso che viene registrata in un momento definito e poi viene messa su internet e viene scaricata attraverso degli aggregatori che possono essere ad esempio iTunes, che con la versione 4.9 propone anche il plugin per scaricare direttamente i podcasting e trasferirli quindi su iPod o comunque anche su altri lettori, perché lui li scarica in una cartella e poi voi potete metterle in qualsiasi altro lettore a vostra disposizione. Bene, podcasting è questo, quindi buon divertimento e buon ascolto. Partiamo subito con l'ultima notizia postata nel mio blog, nella sezione C, tra parentesi, azzate. Parla di adozioni di animali virtuali. E che dire, credevate che la rete avesse smesso di sfornare cosette divertenti? Ma no, dai, è troppo presto. Già, perché ora sono arrivati gli animali da adottare in modo gratuito e virtuale. Questi non sporcano e non danno fastidio, perché secondo voi quelli veri ne danno. E comunque non fanno neanche rumore, che dolci. Il mio primo animale adottato, e penso anche ultimo, si chiama Fedruzzino ed è un pinguino tutto rosso. E comunque, se voi cliccate sopra l'immagine nel mio blog potete farlo giocare e cadere nell'acqua. Il link per adottare animali virtuali è bunnyherolabs.com, che troverete comunque sul mio blog segnalato. Bene, continuiamo tra pochissimo con le altre notizie dalla rete. E leggo da Repubblica.it che oggi a Londra, il giorno dopo la tragedia, scusatemi per questo impappinamento, ma mi succede sempre. Ebbene, la capitale britannica cerca di tornare alla normalità dopo l'attentato che ieri ha causato, secondo la polizia, almeno 37 morti, 38 per la BBC e 700 feriti. È ripresa la circolazione su alcune linee della metropolitana e c'è stata una vasta operazione dell'intelligence per trovare i responsabili. E leggo proprio adesso una notizia delle 10.55, cioè 10 minuti fa. La radio della BBC riferisce che la stazione della metropolitana di Charing Cross è stata riaperta poco fa, dopo che la polizia ha esaminato due pacchi sospetti abbandonati all'interno. Ebbene, io volevo anche parlarvi di Salvatore Ranzulla, questo hacker, come si definisce lui, il più piccolo bug hunter del mondo, è anche definito, che in questi giorni se l'è vista un po' brutta, nel senso che ha scoperto una falla di spoofing che mette sotto torchio anche il mitico Firefox, ma alcuni lettori si sono rivoltati contro e hanno cominciato a scherzare anche un po' pesante, e ieri sera anche sono partiti degli insulti, e secondo me sono totalmente sbagliati, perché in internet bisogna confrontarsi senza insultarsi, perché non ce n'è assolutamente bisogno. Al proposito, è nato anche un sito di parodia di Salvatore Ranzulla che può essere classificato come i siti mai dire web. Questo sito ha, l'indirizzo di questo sito è salvatore-ranzulla.attaccailpianeta.com e vi consiglio di leggerlo perché è molto divertente. Mentre il blog ufficiale di Salvatore, l'indirizzo è www.salvatore-ranzulla.com. Ebbene, io adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo podcasting che si terrà prestissimo, ne sono sicuro. Buon ascolto e buona lettura su direfareblogare.it. Oddio, scusate per la pronuncia, ma oggi ero talmente emozionato che ho parlato come un deficiente. Alla prossima, ciao ciao ciao.